Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono: foto, profili, qualunque cosa possano cliccare, guardare. Magari cerchi una che hai conosciuto a una festa. E non parlo di un sito per cuori solitari, io parlo di prendere l'intera esperienza sociale e metterla in rete. Non c'era nessun hackeraggio, le persone stesse avrebbero fornito foto e informazioni. In un mondo in cui la struttura sociale era tutto ciò che contava, era l'idea del secolo. E il Sunday Times a scrivere che Facebook non paga le tasse in Gran Bretagna grazie a una scappatoia che permette alla società di Zuckerberg di spedire il denaro alle isole Cayman, paradiso naturale e fiscale dei Caraibi. Connesso. Oddio, mi sento in forma. Ehi, ho la richiesta di una nuova amica. Non conosco questa persona. Oh, bene. 235 amici. Oddio, sono famoso. Immaginate un mondo senza Google, dove non potete scoprire con un click del mouse il PIL del Kazakistan. Su una stima di 12 miliardi e mezzo di entrate in tutto il mondo, Google avrebbe denunciato utili per appena 24 milioni di euro. La loro base è incredibile, hanno i dormipod, le stanze dei massaggi, il campo da pallavolo, tutto il campionario. Da ieri, grazie a una sentenza della Corte di Giustizia, il più grande motore di ricerca di pagine internet del mondo promette di cancellare dai suoi archivi, su richiesta dei cittadini, le pagine che li riguardano direttamente. È considerato il più bel posto di lavoro in America. L'intangibile materia che ha fatto di un motore di ricerca un motore di cambiamento. Washington Post rivela come l'agenzia NSA abbia infiltrato i motori di ricerca Google e Yahoo per ottenere dati sui cittadini che navigano in internet. La Francia chiede a Google, che di recente ha raggruppato le informazioni di diversi servizi in passato separati, di chiarire le finalità della raccolta dei dati personali. Potrebbe incorrere in multe da 150.000 euro in Francia fino a 1 milione di euro in Spagna. L'AGCOM ha chiesto recentemente il loro fatturato, non glielo andare. È iniziato ieri il semestre europeo guida italiana. Il presidente Renzi, abbiamo sentito, dice che sarà un'occasione storica per cambiare l'Italia e l'Europa. Lo speriamo. Uno dei temi di grande importanza sarà quello di promuovere le regole per mettere sullo stesso piano i regimi fiscali al tempo dell'economia digitale, perché quello che viviamo è una condizione nuova per l'umanità. Una prima domanda allora è questa: la tassazione nell'economia digitale si deve fare dove si produce o dove si consumano i prodotti? E se la risposta è dove si consumano i prodotti, allora le legislazioni fiscali vanno cambiate a partire dagli stessi Stati Uniti, che sono la sede delle over the top del web, perché anche in America il sistema fiscale in vigore, secondo autorevoli opinioni, è come una forchetta con la quale si vuole raccogliere il brodo, cioè assolutamente inadeguato. Professor Antonio Uricchio, rettore dell'Università di Bari, qual è lo scenario in cui si sviluppa questa dialettica assolutamente nuova e senza precedenti? Quando cambia la storia dell'umanità, i regimi fiscali non possono restare fermi. Nell'economia digitale il rapporto è diverso, perché quello che conta è l'accesso, che sposta tutto sul servizio e fa perdere di vista il diritto proprietario. Nel momento in cui si assume anche una diversa prospettiva, che è quella dell'economia digitale, occorre che il fisco ne prenda atto, occorre che vi siano anche strumenti adeguati, perché il rischio, qualora questo non accada, e che l'economia reale continua ad essere tassata o sovratassata attraverso le proprie regole e l'economia digitale possa sfuggire a queste regole, perché l'economia reale tassa beni tangibili perché privilegia il rapporto fra bene e territorio, mentre l'economia digitale resta sostanzialmente intassata perché sceglie il luogo in cui essere tassata, creando sacche di elusione, di erosione o di evasione degli imponibili fiscali che non possano essere anche più ammessi e ignorati. C'è stato chi ha ritenuto che internet dovesse essere fuori dal sistema fiscale, una terra senza tasse, dicendo che internet è uno strumento e non genera ricchezza differenziale rispetto a quella prodotta dall'economia reale. Beh, noi sappiamo che questo non è vero, perché l'economia digitale esprime anche ricchezza. Basti pensare al peso che assume nel prodotto interno lordo mondiale, oltre il 6%. L'Internet Tax Freedom Act approvato dal governo americano, l'OECD, però anche era convinzione diffusa che questa moratoria dovesse essere temporalmente determinata, dovesse essere assicurata e garantita per una fase di avvio di Internet, per favorire la diffusione, però senza danneggiare l'economia reale. Non ci sono più le condizioni perché la moratoria fiscale della rete permanga. Per provare a capire cosa significa pagare le tasse per le over the top del web, abbiamo realizzato un fact-checking su una frase di sintesi detta dalla portavoce di Google Italia, che ha detto: la nostra corporate tax rate complessiva nel 2012 è stata del 20% circa. Quindi, secondo la dottoressa Simona Panseri, Google paga il 20% di tasse. Non è molto, per esempio in rapporto al 41% di News Corp, che è una concorrente, ma non è neppure vero per quanto riguarda l'Italia. Sentiamo, abbiamo fatto un fact-checking. L'aliquota effettiva di Google nel 2012 a livello globale è stata effettivamente del 19,4%, poco, ma sicuramente di più di quanto hanno pagato due dei suoi principali competitor, Apple al 14%, Amazon addirittura il 6%. Non bisogna però dimenticare che stiamo parlando di un'aliquota globale, ovvero di una media che nasconde importanti dislivelli geografici. L'aliquota effettiva di Google al di fuori degli Stati Uniti è infatti molto più bassa, 5,3% nel 2012, 8,6% nell'anno successivo. In tutto 3,1 miliardi di dollari sfuggiti al fisco nel periodo 2007-2009. E com'è possibile tutto ciò? Grazie a strumenti come il Double Irish Dutch Sandwich, ovvero ricavi registrati in Irlanda, trasferiti tramite i Paesi Bassi a un'altra filiale irlandese con domicilio legale a Bermuda. In conclusione, la dichiarazione del direttore della comunicazione di Google sembra essere fuorviante. La già bassa aliquota globale del 20% non è infatti indicativa quando si parla del contesto fiscale extra USA. Ingegner Carlo De Benedetti, presidente onorario del gruppo L'Espresso. Allora, ingegnere, questi numeri del fact-checking mi sembrano abbastanza interessanti. Che dice? Sì, beh, non sono nulla di nuovo, perché no. La cosa che secondo me bisogna distinguere è Internet da chi guadagna e lavora su Internet. L'accesso a Internet, secondo me, è ormai nelle cose associato al concetto di free. Di libero. Il problema è che come imprenditore ho un'ammirazione sconfinata per questi over the top, perché quando penso che Google capitalizza 390 miliardi di dollari, che Facebook ne capitalizza 172, non rimane altro che esprimere grandissima ammirazione, anche perché poi Google è nata nel 97, cioè veramente l'altro ieri. Ecco, quindi come imprese sono imprese straordinarie, solo che si basano su una, diciamo, presentazione di loro stessi del tutto fuorviante. Cioè loro si presentano come società tecnologiche, non c'entra niente la tecnologia. Cioè l'algoritmo è stato certamente un'invenzione di Sergey Brin e di Larry Page, che è stata straordinaria dal punto di vista scientifico e matematico, ma l'algoritmo è servito per, se serve tuttora, al di là del raccogliere dati generici, per raccogliere dati specifici per profilare la pubblicità. Per cui Google fa un'azione commerciale che nulla ha a che vedere con la tecnologia. Ecco. Sarebbe come dire che, scusi, noi eravamo delle aziende tecnologiche perché avevamo le macchine da stampa. Certo. Noi siamo dei softwareisti, non siamo degli hardwareisti. Ecco, Google ha avuto la capacità, anche da un punto di vista relazionale, di presentarsi come un'azienda tecnologica, quando la sua base di origine e la sua capacità è derivata dall'algoritmo, ma poi sostanzialmente ne fa uno sfruttamento commerciale, come è legittimo che sia. Però se è legittimo che sia, è altrettanto legittimo che si paghi le tasse. Che si paghi le tasse. Però l'ingegnere De Benedetti, vi è cambiato il mondo sotto gli occhi, ha detto prima, il 96, sotto gli occhi, e qualcosa non avete capito, adesso inseguite, cioè che cos'è che non avete capito? Ma noi non abbiamo capito che non c'era comunicazione diretta tra contenuto e tecnologia. E questo è quello che ha colpito tutti i giornali del mondo, compresi quelli americani, ma ha colpito un po' tutti gli operatori del settore informazione. Credo. Perché voi producete tutti i contenuti che sono il motore di tutto, i contenuti che sono il motore, e però non siete riusciti a difendere. Ecco, questo è stato, se vuole, il nostro errore. Poi come editori, nel caso specifico, abbiamo fatto, ma nel mondo intendo dire, un errore che è quello di dare l'accesso gratuito a informazioni sempre più abbondanti e larghe. Allora, ripeto, il concetto di web è un concetto di libertà e di gratuità, è ormai incancellabile, secondo me è anche una giusta conquista. Infatti io non sono favorevole a chiamarla web tax. La realtà è semplicemente di ristabilire un'eguaglianza di trattamento fiscale. Ecco. Cioè, a noi, ma dico noi editori in genere, non sarebbe, ma nessuna altra impresa, non sarebbe consentito di avere una costruzione fiscale del tipo di quello che lei ha descritto prima. Non ho capito perché questa gente raccoglie pubblicità in Italia, cioè questi fanno del fatturato a clienti italiani che lo fatturino dall'Irlanda, ma hanno una stabile organizzazione nel paese e traggono fatturato e dunque margine dal mercato italiano. Su questo mercato devono essere tassati. E quello è il problema delle tasse, dove devono essere pagate. Insomma, ma devono essere pagate dove si fa il fatturato e dove si fa gli utili. Cioè non mi sembra una cosa così stravagante. No. Ingegner De Benedetti, lei citava prima Renzi, la sua, diciamo così, polemica, quando si è opposto, Renzi si è opposto alla richiesta del pagamento dell'IVA per le over the top in Italia, dicendo che il problema era europeo. Lei appunto lo ha criticato, poi ne ha detta anche un'altra, sentiamola. Lei ha detto Renzi è mal consigliato. Io dico che sbaglia addirittura, perché va a cercare i 50 milioni, i 100 milioni che ci mancano per quadrare il cerchio, quando ci sono miliardi di utili fatti in Italia da quelle aziende che si chiamano over the top, cioè da Google, Amazon, Facebook e così via, che dovrebbero essere tassati perché derivano da attività fatta nel paese. La Francia l'ha fatta, ma secondo me, come mai fa un errore? Io credo, ma penso che sia molto influenzato dall'ambasciata americana. E quindi? Non c'è dubbio che queste aziende, che sono delle meraviglie, hanno un rapporto privilegiato con l'amministrazione americana, in particolare con l'amministrazione Obama, perché rappresentano una nuova frontiera della, adesso dominazione è una parola sbagliata, ma dell'invasività americana, che prima era a livello di grandi imprese storiche, diciamo alla mia epoca l'IBM, la General Electric, la US Steel, l'Exxon e così via. Oggi sono la generazione successiva. Oggi le prime capitalizzazioni di borsa americane sono costituite da queste over the top, che hanno un potere enorme e che sono state utilizzate dall'amministrazione americana, come si è visto nello scandalo NSA. Per cui adesso si comincia anche a capire che forse c'è anche un problema di democrazia dal punto di vista generale. Certamente sono stati grandi finanziatori delle campagne elettorali democratiche, in particolare della campagna di Obama, come prima erano state della campagna di Clinton, e sono esportatori del made in USA, che non è più dell'hardware ma del software. E certamente questo è una delle ragioni per cui gli è permesso. Queste imprese realizzano in Europa dal 28 al 33%, a seconda di quella che nominiamo, del loro fatturato. Non pagano imposte, in Europa non paga niente. Ecco, lei ha fatto anche un accenno alla Commissione europea. Noi siamo profondamente in contrasto col commissario Almunia. Ci auguriamo che la prossima Commissione riprenda questo argomento tenendo conto dei dati reali. Ingegner De Benedetti, voi avete avuto però molto potere di influenza, e se siamo a questo punto che stiamo rincorrendo, in qualche modo vuol dire che è stato usato, diciamo, non bene, per pigrizia, per ignoranza digitale, per arretratezza anche culturale nel leggere quello che stava capitando. No, mi interesserebbe, perché è importante, perché voi avete tutti i contenuti, e poi rispetto a tutti questi contenuti invece il modello di business che portava a questo tipo di ricchezza, diciamo, avrebbe dovuto essere lì, quasi impossibile da non vedere. Vorrei dirle che la prima vittima sono stati i giornali americani, i quali avevano la roba sotto gli occhi. Il New York Times ha perso, come tutti i giornali americani, hanno perso quella che si chiama classified, cioè la piccola pubblicità, 20 anni fa. Quindi non è che noi siamo stati ciechi perché siamo un po' arretrati mentalmente. Semplicemente non abbiamo capito come industria editoriale nel suo complesso, industria dei contenuti io direi nel suo complesso, non abbiamo capito che la tecnologia sarebbe stata sfruttata da questi signori che si presentavano come dei tecnologi per un'operazione puramente commerciale, certo. Che per carità legittima, cioè voglio dire c'è stato delle vittime serie di un fenomeno complessivo che è l'adattamento dell'informazione al mondo di Internet. Questo è vero, un dato di fatto, ma non è che non abbiamo proprio capito che loro ci vendevano l'algoritmo, in realtà si fottevano la pubblicità, questo è quello, certo, che non abbiamo capito. Beh, ma non è proprio niente, diciamo che infatti è così. Una cosetta in più forse si poteva anche intuire. Ingegner De Benedetti, il premier francese comunque, Valls, ha dato a Google una multa di 1 miliardo di euro per evasione fiscale, perché intanto non sarà semplicissimo a livello europeo, dove in materia fiscale bisogna essere all'unanimità per prendere decisioni, non sarà proprio una cosa, una passeggiata di salute, credo, trovare una soluzione che difenda questa chiarezza di rapporti. Quindi Renzi dovrebbe fare la stessa cosa, cominciare con le multe? Io siccome sono un imprenditore, conosco gli imprenditori, evidentemente so che il toccarli sul portafoglio è sempre importante, cioè il signor Eric Schmidt è molto che è il chairman di Google, è uno molto sensibile al miliardo, è andato a parlare addirittura con Hollande per cercare di dissuaderlo, solo che siccome Hollande in questo momento in Francia conta poco e conta più Valls, ha avuto ragione Valls. Quindi Renzi potrebbe anche tatticamente, se tutti tatticamente cominciassero a fare multe. Non è una soluzione sistematica del problema, no, però è un incentivo per risolverlo. Ecco, ma voi cosa vi aspettate in definitiva da questo, se vi aspettate qualcosa da questo semestre? Beh, ci aspettiamo quello che ci ha promesso Renzi, che questa roba si risolveva anche europea, adesso è lui il presidente di turno. Ecco, all'ultima cosa le chiedo, ingegnere De Benedetti, Web Tax abbiamo detto è un nome che hanno scelto le over the top e l'hanno scelto perché sembrasse una tassa sul web, che non è, e nessuno ha pensato a quello, perché siamo d'accordo su quello che ha detto. Lei come la chiamerebbe? C'ha un'idea? Equality tax. Equality tax, ok. Molto semplice. Federico Confalonieri, presidente, lei come la chiamerebbe? Ma io la chiami Carolina o quello che vuole, basta che la mettano, perché dove condivido quello che ha detto De Benedetti prima, algoritmi o tecnologia o altro, noi l'abbiamo capito, lei prima diceva non avete capito, noi nel 2006 abbiamo cominciato a prendere le distanze, ad attaccare Google, YouTube, a fare delle diffide, nel 2008 abbiamo fatto una causa, ma perché? Non solo per un fatto fiscale, però quello che chiedo è che questi signori, questi over the top, abbiano lo stesso regime nostro. Noi cosa facciamo? Noi, adesso parlo da editori televisivi, intanto i broadcaster europei finanziano l'80% dei contenuti. Cosa voglio dire? Voglio dire che per esempio noi, editori televisivi, abbiamo intanto l'antitrust 20% sul famoso SIC, sistema integrato di comunicazione, poi abbiamo i limiti di affollamento, per cui non puoi mettere più di tanto nei tuoi programmi, poi hai i limiti di quote europee, poi hai che se tu fai vedere, anzi magari scappa perché una presentatrice esuberante magari si vede il capezzolo, apriti cielo, non capita quasi niente. Sulle piattaforme internet c'è l'ira di Dio, certo. Perché da aver paura per i minori veramente, e lì non succede niente. Ecco, tutto questo insieme fa sì che non ci sia una concorrenza leale, fair, competition. Quindi, come diceva l'ingegnere De Benedetti, perché questa è la notizia, sì, siete d'accordo? No, ma su questo, no, mi sembra importante. Su questo va da sé, anzi, io dicevo no, prima io lui consideravo... che abbiamo cominciato prima noi, molto prima, dicendo che va bene, okay. Nel 2006 lo dicevamo. Il punto è questo, che ci deve essere veramente una parità di trattamento. Se tu il fatturato lo fai con la pubblicità, ma perché devi avere un trattamento diverso? Perché sei tecnologico? Perché hai questa aura intorno a te di modernità, di piacere ai giovani. Io per esempio non sono neanche troppo d'accordo quando lui dice del free, gratis. Ai nostri tempi si comprava tutto. E noi paghiamo 60 milioni se uno non fra paga. SIAE e IMAIE. Perché? Perché abbiamo fatto delle trattative ovviamente nel tempo, ma siamo arrivati a questi, e paghiamo 40 credo per la SIAE e 20 per l'IMAIE. Questo è riconoscere il copyright. Questi piratano, cioè diciamolo francamente. No, beh, è pirateria di alto bordo, come il famoso pirata Morgan, che poi è diventato baronetto inglese. Questi qui diventeranno magari membri del congresso o qualche cosa del genere. Loro invece, col fatto che ospitano, cioè fanno gli ospitano editori dei contenuti. Loro fanno gli editori con i contenuti degli altri. Con i contenuti degli altri e prendono i soldi sulla pubblicità. Sulla pubblicità. E quel punto. Allora io non me ne intendo di fiscale. Quindi cornuti e mazziati, siete stati. No, cornuti e mazziati, vabbè, un po' troppo. Però quasi. Se producono reddito qui, se hanno beneficio qui, che paghino qua. Che è questo che a noi è successo una vicenda. Stiamo dicendo. A noi è successa una cosa. In Lussemburgo noi avevamo una SRL Mediaset. Equitalia ti dice no, questa è un'estero vestita e allora devi pagare. Allora per evitare che di un contenzioso con Equitalia tu patteggi e hai pagato fior di milioni, abbiamo pagato 29 milioni per la precisione, per non avere seccature. E quando si parla di neocolonialismo di altro, non è una banalità, chiamateli, usate dei sinonimi, quello che volete, ma è quello che succede oggi. Allora io le chiedo, con Falonieri, questa strada di Valls, che è tattica, come abbiamo detto, però è una strada intanto che può essere seguita oppure no? No, tutto quello che avviene in questo campo è benvenuto e ben accetto. Perché e anche la questione di Hollande, bene, ma anche in Germania si stanno muovendo su questo. Infatti. Quando noi diciamo i contenuti nostri che non sono pagati, che vengono piratati, fanno sì che ci sia un impoverimento nostro. Io non ero all'epoca più di tanto contento della famosa exception culturelle che era invece dei francesi, però ha funzionato. Se poi il paragone spesso fanno, beh, ma anche voi siete partiti, vi davano dei pirati eccetera, ma dei pirati che pagavano, perché quando Berlusconi è venuto qui a comprare 500 titoli di Titanus dal povero Goffredo Lombardo ha pagato 2 miliardi e qui ridevano tutti, dicevano, toh, è arrivato il milanese scemo che gli ha dato 2 miliardi per delle cose che non esistevano. Cosa anche vedi? Nella televisione si è cominciato da un fuorilegge. No, diciamo, fuorilegge è un accidente. Fuorilegge è un accidente. Oh. Beh, fino perché alla si mammi, pagava quello che si doveva pagare. No, si pagava il prodotto, ma diciamo fino alla mammì la legge non c'era. Ma la legge, quindi un conto è non esserci una legge. No, per dire che qui stiamo cercando una legge, stiamo qui, diciamo, l'obiettivo è che poi in realtà stiamo scoprendo che conviene avere una legge, perché loro nel frattempo sono fuori legge, diciamo, rispetto a questo criterio. Ma sono fuori ed legge è quello che guadagnano tanto perché sono fuori legge. Oh, perché non pagano le tasse? Beh, è soltanto che non pagano le tasse per delle attività che sono sacrosantamente commerciali, come ha appena finito di dire l'ingegnere. E con Falonieri noi abbiamo fatto un fact checking sulle posizioni molto ambigue che stanno per ora emergendo in sede europea. Ci sono state delle opinioni contrarie. Partiamo innanzitutto da Emer Trainor, portavoce del commissario per la fiscalità, che a dicembre del 2013, riferendosi alla cosiddetta web tax italiana, ha affermato: sembrerebbe contraria alle libertà fondamentali e ai principi di non discriminazione dei trattati. Questa opinione l'ha riconfermata a noi proprio oggi per email. E neanche la multa francese sembra essere scampata alle critiche. Ecco, quindi in Europa non è che sono ancora così sulla strada che stavate auspicando, mi sembra che ci sia ancora molto da fare. Un altro che? Vabbè, ma sai, noi stiamo facendo qui in Italia una battaglia, diciamo, sulla burocrazia più che contro la burocrazia, perché poi la burocrazia serve, no? Certo. E come? Ma lì siamo agli eccessi, ragazzi. Certo. Basta che uno vada a Bruxelles e entra dentro e si accorge. E si perde, sta dentro 3 giorni se non ha la bussola. C'è un'azienda, chiamiamole col loro nome e cognome, che fattura 1.200.000.000. Parte in search e parte in pubblicità. In pubblicità perché? Perché il signor Confalonieri manda a Minoli, che è suo amico, un pezzettino di Zelig, per capirci. Loro dicono, beh, ma io sono soltanto l'ospite di questa trasmissione fra i due Sì, però tu ci metti un banner, tu ci metti un qualche cosa per cui prendi dei quattrini. Allora, sei un editore, perché poi anche ci sono diverse sentenze ormai, non è che siamo all'epoca di Carlo Codega, siamo in un periodo in cui anche la magistratura, non solo italiana ma di altri paesi, ha riconosciuto delle responsabilità anche editoriali a questi. Ergo, siamo conseguenti fino in fondo, se quello è il prodotto, pagate, paga quello che... Bene, faccio un'ultima domanda. Con Falonieri, in concreto, voi che cosa vi aspettate, se vi aspettate qualcosa dal semestre europeo? Ma io mi aspetto di più dal nostro paese, mi aspetto di più da Renzi, che faccia in Europa, ha detto che ha portato a casa la flessibilità, speriamo che l'abbia portata a casa, speriamo che porti a casa altre, che sul fiscal compact sono quelle le cose, perché poi alla fine sia noi che gli editori di carta stampata, cosa ci aspettiamo? Che cambi un poco l'atmosfera generale, che ci sia un po' più di fiducia, che ripartano i consumi, e allora sicuramente la pubblicità andrà ancora su, anche su da loro, ma qualcosa resterà anche da noi in più. Questo è quello che ci aspettiamo. 800 24 0024 numero verde, sms 349 238 6666. Onorevole Francesco Boccia, buongiorno. Chiarito che non è una tassa sulla rete, ma una richiesta di equità fiscale tra tutti gli editori della rete. Che cosa dobbiamo aspettarci dalla politica in Europa? Che prenda una decisione, che interrompa questo porto franco nel quale vivono le multinazionali del web, perché non possono permetterselo tutti i paesi europei. Non è possibile che ci siano aziende che non pagano tasse, ecco, e aziende che ne pagano tante. Ecco, onorevole Boccia, Renzi ha detto si risolverà tutto in Europa. Siamo in Europa, semestre europeo, ne avete parlato? Non ne abbiamo parlato, ma ognuno per le competenze che ha sta preparando il lavoro di questo semestre. Il Parlamento italiano, nella conferenza permanente sul Fiscal Compact, avrà una sessione sull'economia digitale e il fisco tra il 28 e il 29 settembre, e quello sarà un momento ufficiale nel quale almeno i parlamenti prenderanno una posizione chiara e netta. Io mi auguro che siano conseguenti i governi, e non ho motivo di non credere che il presidente Renzi sia conseguente rispetto alle cose che ha sempre detto. Ecco, senta, quindi in concreto lei si aspetta questo, che dopo l'incontro dei parlamenti, i parlamenti diano direttive per cui si decide questa equità, fiscale. In anche perché modo. Siamo tutti d'accordo, tranne le multinazionali e un po' di politici loro amici. Chi sono i politici loro amici? Ma in ogni paese ne trova qualcuno. In Italia il loro amico più caro è Beppe Grillo. Sì. E in ogni paese Benedetti ha detto che l'ambasciata americana influenza anche abbastanza Renzi. Guardi, io penso di no, spero non sia così. Il Presidente del Consiglio, all'epoca segretario del partito, aveva detto che avremmo affrontato il tema durante il semestre italiano. Io segnalo che se non avessimo fatto questo dibattito così duro, così netto, così chiaro nel Parlamento italiano, oggi saremmo appunto zero. Questo sicuramente è stato un Parlamento che in questo caso ha preso posizione netta, e questo è assolutamente chiaro, perché è chiaro che non sono tasse... che non sono tasse sul web, perché questo è il punto centrale, ma sono tasse su i soldi guadagnati. Guardi, io l'IVA che pagano tutti. Chi ci ascolta sa che l'IVA la paghiamo tutti. E l'IVA, le multinazionali web non la pagano, ma si rifiutano di pagarla. Se lei si rifiuta di pagare una tassa, le arriva una cartella dopo pochissimo, e le pignorano la macchina. A loro non succede nulla, perché dicono c'è l'Europa. E qual è il tasso di evasione? Quanto ammonta? Quanti soldi lo Stato non entrano nelle casse dello Stato che potrebbero entrare? Noi abbiamo stimato un mercato complessivo in Italia in questo momento, tra commercio elettronico, turismo online, pubblicità online, informazione, giochi, che non paga tasse, un mercato complessivo di 25 miliardi di euro. Su quei 25 miliardi, fino all'anno scorso, tutte insieme avevano pagato solo 6 milioni di euro. Con il ruling 25 miliardi introdotto da noi, quest'anno pagano solo 137 milioni. Io penso che da quel mercato un paese come l'Italia non possa non avere un gettito inferiore ai 2 miliardi l'anno, almeno ai 2 miliardi l'anno. Che sono quelli che servono per fare tante cose, anche per la disoccupazione giovanile. Grazie, onorevole Boccia. Pubblicità. Mix 24. Complici, più che due amanti siamo complici. Finiti ormai gli slanci facili. Sappiamo troppo di noi due e non parliamo più. Complici. Alla fine della settimana che andremo in vacanza mi mancheranno queste due canzoni, Pietrangelo. Complici, bellissimo. Apparentemente assonnato oggi in metropolitana, lo sai chi c'era? Con i Ray-Ban, con una sacca sulle ginocchia e dalla sacca usciva fuori una racchetta da tennis. E chi era? C'era Elderlin in persona. Allora io ne ho approfittato e l'ho interrogato a proposito di un verso che mi ha sempre martellato in testa. E quello dove lui dice che un dio è l'uomo quando sogna, un mendicante quando pensa. E quindi gli ho chiesto ragione di questo verso. Lui mi ha spiegato che il cuore ricolma il vuoto, la mente invece raggela ogni speranza. Allora bisogna farli complici per farli diventare amanti. E la mente, così, calcolando le probabilità di incontro, col cuore lo cattura l'incontro e ne fa poesia. Dopodiché lei, perché c'era una lei in quel vagone, è diventata luna, e lui, Elderlin, è diventato lupo e ululando se l'è portata via. È per paura che viviamo. Ma posso dire una cosa? Sì, beh, non stupendo. Era Elderlin con la racchetta, era Björn Borg che lui ha confuso con Elderlin. Senti, abbiamo provocato una bella discussione sulla rete con discorso sulle tasse, sul fatto che devono pagare anche le multinazionali. Non si può sentire un anziano, dice Matteo, come me, e lo ringrazio per la valutazione, dire che mettere le tasse alle aziende web aiuta contro la disoccupazione giovanile. Tristezza, Minoli. Ecco, caro Matteo, non abbiamo parlato di quello. Abbiamo detto che là, in quella evasione fiscale, ci sono tanti miliardi che possono servire a tante cose, anche a quello. Anche se vecchio, almeno questo lo capisco. Mario, andiamo, la bolla. Facciamo un giro. Dai. Allora, il califfato cerca esperti. Io ve lo dico, vi avverto che le milizie sunnite di ISIS hanno dichiarato il califfato e cercano esperti in legge, ingegneri e medici. Non so come la paga, francamente. Un posto piuttosto rischioso, tra Aleppo e l'Iraq, fino diciamo al Kurdistan. Segnalo che questi stanno costruendo, hanno intenzione di costruire qualcosa che assomiglia a uno Stato e quindi andare al di là del fatto che sono un gruppo terroristico. Intanto, avete sentito anche nei GR, la nave carica di armi chimiche siriane è arrivata in Porta Gioia Tauro. Segnalo che lo smaltimento finale non verrà fatto in Italia, no, ma verrà fatto in Germania e in Finlandia. Qua verranno neutralizzati gli agenti chimici, che è tutto una cosa diversa. Ecco. Il 2 luglio di 21 anni fa, Mogadiscio, tre soldati italiani vengono uccisi nella battaglia del Checkpoint Pasta, una storia triste di una missione fallita che racconteremo dopo il giornale radio, ma intanto una piccola anteprima. È iniziato, diciamo, sembrava più un gioco, niente a che vedere con le armi, con quello che avevamo addosso. Noi eravamo lì per aiutare questa gente. Lì, oltre ad aver perso delle vite umane, personalmente io ho perso il mio futuro, la mia giovinezza, la mia voglia di vivere, i miei progetti, il mio... sì. Questo l'ho lasciato lì. E spero che un giorno comunque andrò a riprendere, perché comunque la somma è bellissima. Ecco, dopo il giornale radio Marina Milone ci racconterà come sempre questa storia drammatica di fallimento. Pubblicità. Mix 24 800 24 00 24. Il numero verde 349-238-6666, l'SMS, il canzoniere. Se alla prima e certo molto provvisoria biografia dell'uomo diletto, così terribilmente provato, innalzato e abbattuto dal destino, alla vita del geniale musicista, premetto alcune parole su me stesso e sulle mie condizioni, dichiaro in modo assoluto che non lo faccio per il desiderio di mettere avanti la mia persona. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, SMS, bolla! Scendi la macchina, va. Sei sicuro di non andare troppo veloce? Se non ti fidi puoi sempre controllare. Allora perché la polizia ci insegue? Ma non saprei, dopotutto io sono un computer, non un indovino. Allora, questa era Supercar, mitico. Eravamo piccoli. Vabbè, insomma, ti voglio parlare di una cosa digitale, visto che avevamo l'argomento. E sai che si può fare un miliardo facendo l'autostop? Cioè? Ti devo parlare di BlaBlaCar, che è una startup francese che ha un business facile facile. Io ho la macchina, viaggio tutti i giorni, metto a disposizione i posti miei in macchina a un prezzo basso e chi vuole trova il passaggio. Dove lo trova? Ovviamente in un sito online. Tutto, si chiama taxi quella roba lì in genere, no? Sì. No, cosa c'ha di diverso? Allora, c'è da diverso che viene chiamata sharing economy. Allora va bene, ok. E quindi l'autostop si fa online, si paga una piccola quota, ovviamente. 8 milioni di iscritti in 12 paesi, 1 milione di viaggiatori ogni giorno. BlaBlaCar sta finanziando la sua società, fa un round adesso da 100 milioni di euro, è una startup europea, è una cosa abbastanza rara per le dimensioni. La valutazione attuale a questi prezzi sarebbe di 1 miliardo di euro. Domanda: dove le paga le tasse? Ah, questo è il tema, l'abbiamo scoperto. Perché, no, se le paga in Francia sono altine rispetto all'Irlanda. Bisogna... O le Cayman. Vai. Salamino, no, ma siamo vecchi. Il culto per lei sopravanza il culto per lui. Un gustoso ritratto di Francesca Pascale sull'Espresso, un articolo di Susanna Turco, e lì capisce che cosa sta accadendo. E cioè il modello Evita, e Lady Gaga è già pronta per interpretare la bella ragazza nel musical dei musical, e finalmente risolta anche la questione dinastica. Quindi niente Marina, niente Barbara, niente per Silvio, il capo della destra di domani sarà la fidanzata del cavaliere, che è brava anche in teologia. Ha detto che Cristo non ha insegnato a far differenze tra etero e omosessuali, e dice poi: approfittiamone perché c'è un papa liberale che farà fare di strada a tutti quanti. Insomma, la ragazza ha detto che abbiamo un papa liberale. Penso un po' ai bei tempi quando i papi invece sapevano cosa dire sui liberali. Vabbè, allora voi a questo punto che cosa vi aspettate? Che io vi faccio sentire il calippo? No, nuova canzone! Signora, non ci siamo capiti. Signora, sta a sentire quel che ti dico. Sono Giorgio Gaber ed Enzo Iannacci. I due corsari, il limone. Fantastico! Alla nostra quota rosa oggi la parola. Relax, don't you ask when you wanna go to it. Relax, don't you ask when you wanna come. Relax, don't you ask when you wanna suck it. I mondiali a quanto pare non sono una festa per tutti, un po' l'abbiamo capito, ma nemmeno per la Seleção. Infatti le lacrime sono contagiose come gli sbadigli, dal portiere Giulio Cesare alla stella Neymar, tutti a frignare in campo. Uno sfogo collettivo così preoccupante che il CT ha dovuto convocare una psicologa che, poveretta, non la invidio, entro il 4 luglio, cioè subito, deve spazzare via, lei ha detto così, la tensione che li fa piangere a dirotto e che blocca energie e sensibilità. Accidenti! E come la concludi? Con una canzoncina? Con questa. yes. But shoot it in the right direction. Che facciamo? Va, andiamo in Belgio. Andiamo ancora con una bolla. Andiamo in Belgio, va. Andiamo in Belgio. Questa musica sembra un po' una banda di paese, ma insomma vabbè, che cosa ogni... c'hai contro le bande di paese? Io niente, figurati, sono di paese, perché oltretutto, tu non sei di paese. Riccardo Muti in persona, che è Riccardo Muti, dirige le bande di paese, vabbè, come imparato... il maestro Scannagatti, e ha imparato a dirigere le bande di paese. Hanno le tasse delocalizzate o... vai con le tasse tue del allora Belgio. Sono cavoletti di Bruxelles, ragazzi. Strano posto il Belgio, bisogna dirlo, è piccolo apparentemente insignificante, e succede sempre di tutto. Pensa a Waterloo, Napoleone perse la battaglia e poi fu esiliato, e stop dell'avventura. A Bruxelles si decidono tutti i giorni i nostri destini. Il Belgio però non viene calcolato da noi. E tiè! E ai mondiali che cosa ha fatto? È addirittura arrivato ai quarti di finale. Ha eliminato gli Stati Uniti, che tutti pensavano fossero la nuova potenza calcistica, non lo sono. Qual è il segreto del Belgio? Del Belgio? Ho letto Paul Krugman. Stamattina dice: il segreto del Belgio è soprattutto non aver avuto un governo per 540 giorni. E questo gli ha impedito le politiche dell'austerità. Allora ha tirato giù un grafico mettendo a confronto il PIL della Germania e quello dell'Olanda e della Francia, Olanda e Belgio. Il Belgio va molto meglio. Meglio senza governo. Pensateci, gente. Che molto cosa può interessante questo. Intanto abbiamo una telefonata. Per il nostro canzoniere? No, non abbiamo telefonate. Simonelli, professore! Buongiorno. Lei ha indovinato, no? No, oggi no. E allora c'ha un minuto per dirci dove era il canone ieri sera? Il canone ieri era, siccome ieri era il primo luglio, decennale della morte di un grande, di Marlon Brando, il canone era presso chi ha celebrato adeguatamente Marlon Brando. Quindi sicuramente Sky Arte, che ha mandato un documentario biografico molto corretto, ma soprattutto Iris, che ha fatto due film, Apocalypse Now, e un film dimenticato, perché molti dimenticano che Marlon Brando ha fatto un bellissimo film, La Contessa di Hong Kong, ultimo film di un certo Charlie Chaplin, che qualcosa nella storia del cinema ha contato. Quindi canone a Marlon Brando. Poi... mi sentite? Certo, siamo ancora... tutto orecchi. Siamo alle isole Cayman, tutti e tre. 10 secondi, un altro grande a cui lei credo sia molto affezionato. Ieri ha esordito come seconda voce delle telecronache di Sky Alessandro Del Piero. Come è andato? Normale, questo non conterebbe molto, ma in questo paese dove la questione delle telecronache è una questione... E che voto gli ha dato? Che voto gli ha dato la seconda voce Del Piero? Allora, 7. Partito così, ma si è ripreso alla grande. Sì, è difficile fare la seconda voce. Se non avesse un po' di prudenza, quando si lascia andare, con considerazioni personali, come si dice a scuola... lasciati andare un po' di più, sii più te stesso e Del Piero vincerai. Può arrivare a prendere 8. Grazie professore, pubblicità.